Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio e ben ritrovati all'appuntamento su Radio 24 con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. E oggi, venerdì 16 settembre, non poteva mancare l'appuntamento tradizionale d'Italia in controluce nel fine settimana con la scuola e con Maria Pieraceci. E allora, sentiamo di cosa si parla oggi. Scuola in controluce. Assurdità del nostro paese, è costata 400.000 euro tutti i donati dei privati ed è stata la prima scuola a riaprire dopo il terremoto dell'Aquila che non fosse stato un container. Parliamo della scuola dell'infanzia di Villa Sant'Angelo, un vero gioiellino dotato di pannelli solari e sistema antisismico. Eppure quest'anno di bambini la struttura non ne vede neanche l'ombra. Sì, perché in tempi di ristrutturazione, come la chiama il ministro della pubblica istruzione Gelmini, quella scuola quest'anno non ha potuto aprire. Ce n'è infatti un'altra fossa a pochi chilometri di distanza e due plessi scolastici in pochi chilometri in tempi di vacche magre per la scuola non possono esistere, troppo costosi, troppo antieconomici. L'amarezza del sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi al microfono di Francesca D'Amico. Prima del terremoto c'erano dei plessi scolastici, a Villa Sant'Angelo non c'era il plesso scolastico. Quando c'è stata offerta la donazione noi abbiamo detto avete bisogno di questa cosa, la scuola ha bisogno di questa cosa, il territorio, la comunità, ci è stato detto di sì e noi l'abbiamo fatto, dopodiché si sono ripristinate le condizioni prima del terremoto e difatti i ragazzi sono stati trasferiti, questa è la struttura, è stata la prima ad essere riaperta, struttura vera e non parliamo di moduli provvisori, che è stata riaperta sicuramente sul territorio dove insiste Villa Sant'Angelo, ma credo addirittura di tutto il cratere sia stata la prima struttura fissa riaperta e in tempi giusti per la ripresa dell'anno scolastico 2009-2010. Chiusa dunque la materna di Villa Sant'Angelo e sono a rischio le scuole materne di altre città, almeno nella qualità che hanno offerto fino ad oggi. Scuole materne le cui spese sono a carico peraltro dei comuni. Gli assessori all'educazione di Milano, Torino, Bologna, Genova e Firenze chiedono al governo una deroga al patto di stabilità per poter continuare ad offrire un servizio adeguato ai cittadini, quindi in primo luogo assumere maestre e commesse, lo ripetiamo che sono poi a spese dei comuni. Su questo, al di là dei colori politici, chiedono anche agli altri comuni di sostenere il loro appello. Sentiamo il vice sindaco di Milano, Maria Grazia Guida, che è anche assessore all'educazione. Il tema è che noi non riteniamo giusto che pur garantendo un servizio che è un servizio dello Stato, con delle fasce di orario fra l'altro più ampie di quelle previste dalle materne statali, perché noi operiamo con una prescuola diciamo dalle 7.30 e siamo aperti fino alle 18. Altri colleghi di altri comuni fino alle 18.30 hanno deciso di aprire queste scuole. Le scuole statali hanno un orario più breve, dalle 9.30 alle 16.30. E invece sappiamo quanto è utile insomma per le famiglie poter usufruire di questo servizio. Certo. Noi parliamo di città, di un'area metropolitana dove le donne lavorano, dove in un'epoca di crisi è anche difficile per una donna chiedere un permesso. Noi crediamo che avendo poi degli obblighi col Trattato di Lisbona dove noi dobbiamo riuscire a garantire il 50% dell'occupazione femminile, non solo lo Stato ci riconosce una piccola quota della spesa fatta dagli enti, perché parliamo di una cifra che va attorno al 25% della spesa resa, tenga conto che su Milano noi abbiamo un costo solo di personale di 140 milioni di euro, quindi non è che parliamo di piccoli investimenti. Il tema è che in una fase in cui siamo vincolati dal patto di stabilità al blocco delle assunzioni, sostanzialmente non possiamo neanche dare ricambio al personale pensionato o al personale che per qualche altro motivo decide di lasciare il posto di lavoro, per cui ci ritroviamo con dei vuoti in organico notevoli. Inoltre l'attuale legislazione ci vieta anche le assunzioni a termine, perché stiamo operando su assunzioni riguardanti posti vacanti in organico, quindi come dire, i lavoratori hanno anche diritto poi di fare ricorso. Quindi abbiamo sostanzialmente le mani legate nel poter mantenere aperti i servizi, fra l'altro garantiti a nostre spese. Il nostro ragionamento è semplice, se sono servizi dello Stato, e noi siamo disponibili a gestirli implementando, a volte mettendo quasi la totalità delle risorse economiche, dobbiamo avere la possibilità, l'opportunità di poter avere gli organici pieni e quindi di assumere il personale. Anche perché parliamo di bambini piccoli, quindi questo organico ci vuole assolutamente, ci sono motivi di sicurezza, ci sono tanti motivi. Sì, no, ma poi c'è proprio una scelta anche sia di rispetto della normativa sia di mantenimento dell'eccellenza della parte, diciamo, metodologica e legata all'istruzione, per cui non sono dei parcheggi, sono delle scuole. E se questa risposta quadro, non dovesse arrivare in tempi brevi, mi scusi? Sarebbe un'operazione miope, perché questo porta molti comuni, non il nostro, in questo momento abbiamo fatto una scelta diversa, però molti colleghi di altre città mi hanno riferito che negli anni hanno dismesso le scuole comunali, quindi aggravando la spesa dello Stato, rimettendo nella competenza statale tutte le spese relative all'istruzione. E per far fronte alla crisi e ai tagli che funestano la scuola, hanno deciso di lavorare un'ora in più non retribuiti, come se poi insegnanti, presidi e amministrativi non ne facciano già abbastanza di ore in più pur di far funzionare la nostra scuola. Insomma, un'ora di volontariato. Un segnale forte quello che parte dal Liceo Scientifico Newton di Roma. Tutti sono pronti a fare la loro parte, spiegano, purché i politici però facciano altrettanto. Il preside del Newton, Mario Rusconi. Tanto che rientri nel nostro dovere, soprattutto morale, quello di dedicare maggiore energia alla scuola. Poi durante la riunione di tutti i genitori delle prime classi, tra genitori e studenti erano più di 500 persone, io ho chiesto agli studenti di dedicare un'ora in più di studio a settimana e ai genitori di dedicare un'ora ai loro figli per portarli non ai supermercati a fare shopping la domenica o agli outlet, ma per portarli in musei, chiese, catacombe, parchi eccetera di una città straordinaria come Roma. Ecco, qual è stata la reazione del personale, di insegnanti, di genitori ed alunni? Ma guardi, la reazione che mi ha colpito di più è stata quella del personale impiegatizio, che è in gran parte costituito da bidelli, cioè persone che hanno stipendi fra gli 800 e i 1000 euro sì e no al mese. Tranne due persone hanno aderito tutti, hanno detto sì, riteniamo di dover aderire, con parole semplici che quindi hanno, diciamo così, rivelato un animo ancora più generoso. Gli insegnanti, che sono un 80, 85 in questa scuola, tranne 3-4 che hanno tirato fuori questioni di principio, così via, cioè le cose che in genere servono a bloccare tutto nel nostro paese, hanno aderito a prescindere poi che fossero sindacalizzati di destra, di sinistra, eccetera, hanno compreso lo spirito dell'iniziativa, cioè uno spirito educativo anche nei riguardi dei nostri ragazzi. È un modo questo per contribuire al risanamento? Sì, però nello stesso tempo noi non chiediamo, appunto, altrimenti non sarebbe volontariato, non chiediamo di avere soldi assolutamente, però pretendiamo, anzi pretenderemmo che le istituzioni, soprattutto quelle politiche, ma non solo, dessero pure loro un buon esempio ai cittadini. Mi sembra che di questi tempi non ci sia, diciamo, questo nostro auspicio non si stia avverando purtroppo. Quanto deve lo Stato alla sua scuola? Di arretrati circa 150.000 euro lo Stato e un 35.000 euro la Regione Lazio, e non sappiamo se e quando ci saranno dati questi soldi. Andiamo avanti in gran parte per quanto riguarda soprattutto i progetti della Regione con i fondi che ci danno volontariamente i genitori ogni anno. In una frase, qual è il significato politico di questa vostra iniziativa di un'ora di volontariato per tutti? Potrei parafrasare quello che disse Giovanni Paolo II, damo se da fa, volemo se bene, insomma, che dovrebbe essere un po' in questo momento di difficoltà uno sprone per tutti gli italiani, cioè cercare di smettere un po' il gioco al massacro, è colpa tua, non è colpa tua, insomma, rimboccarsi le maniche, altrimenti il paese va a fondo. Ed è tutto anche per questa puntata. L'Italia in controluce, un programma, vi ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci per commentare i servizi che sono andati in onda o per proporci le vostre storie a controluce@radio24.it. Siamo anche su Facebook, Radio 24, Italia in controluce. Ci risentiamo lunedì prossimo, per ora è tutto, buona giornata.